2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. In questa puntata ci occuperemo di riconoscimento facciale e cercheremo di farci alcune domande su sistemi che in molti casi sono utili, molto comodi. Pensate ad esempio a lo sblocco dello smartphone, quindi di un display, ma ancora in molte situazioni i sistemi di intelligenza artificiale accoppiati ai sistemi di riconoscimento facciale fanno degli errori e quindi ci sono una serie di rischi. Parleremo di questo tra poco, parleremo anche, faremo un approfondimento su un tema del momento, quello sui monopattini e le biciclette elettriche. Forse sulle biciclette c'è un po' più di conoscenza diffusa, forse, non ne sono certissimo, mentre i monopattini sono un tema piuttosto nuovo. Allora cercheremo di capire quali sono le differenze principali, a cosa guardare, che cosa fare attenzione se pensiamo di fare un acquisto di questo genere. Sapete che in tutto il mondo, non solo in Italia, si stanno cercando delle alternative ai mezzi privati, come può essere l'automobile, o alternative al mezzo pubblico, visto che i mezzi pubblici sono luoghi dove molto facilmente si radunano molte persone, quindi mantenere la distanza è un problema. Allora, siamo favoriti dal fatto che almeno in questa parte del mondo sta arrivando l'estate, quindi il monopattino o la bicicletta, certo la bicicletta tradizionale a pedalata umana, che tra l'altro è il mezzo più efficiente dal punto di vista energetico, oltre che proprio non consumare nulla se non le calorie che ci fa anche un po' bene, però diciamo che non per tutti e poi anche in alcune situazioni o per alcune distanze l'aiuto del motore elettrico e dell'energia di una batteria può essere molto molto comodo. Pensate anche quando fa molto caldo e uno deve andare al lavoro, per evitare di arrivare al lavoro tutto sudato, la spinta elettrica può essere una soluzione. Allora cercheremo di faremo un po' di chiarezza su questo tema. Vi consiglio, prima di passare ad alcune notizie selezionate in breve nelle nostre digital news, consiglio di seguire la vicenda scaturita da uno dei tanti tweet di Donald Trump. Non sempre, cioè diciamo molto spesso sono criticabili o comunque sono discutibili. Comunque non entriamo nel merito di questo giudizio, parliamo di tecnologia. Allora, il caso di questa settimana è legato ad un nuovo servizio di Twitter molto recente che in alcune situazioni e per alcuni argomenti applica una etichetta di fact-checking proprio sul tweet. È un servizio di verifica di quello che c'è scritto nel messaggio del tweet. Quindi uno cliccando va a leggere cose che spiegano come stanno in realtà le cose rispetto a quello che è scritto nel tweet. Quindi non è nessun tipo di censura, nessun tipo di analisi preventiva. Nel caso specifico, appunto, questo era un servizio di cui non si è parlato moltissimo. Nel caso specifico è apparso questo messaggio su un tweet di Donald Trump. E Donald Trump se l'è presa al punto che ha firmato un provvedimento che potrebbe cambiare una legge che negli Stati Uniti protegge i social network dalla responsabilità dei contenuti che vengono diffusi online, visto che è impossibile fare un controllo preventivo. C'è questa legge che rende immuni da qualsiasi attacco per questo tipo di responsabilità negli Stati Uniti. C'è una legge analoga anche in Europa. E devo dire che c'è un dibattito molto acceso, vedremo che cosa succederà, perché non è detto che poi non ci sia un giudice o un provvedimento che blocca questo tipo di provvedimento preso dal Presidente degli Stati Uniti. Però il tema è di estrema attualità, perché al di là di quello che appunto accadrà dall'altra parte dell'oceano, anche in Europa è in fase di revisione il regime della responsabilità delle piattaforme, e Innocenzo Genna, che è un esperto di regolamentazioni legate al mondo della tecnologia, delle telecomunicazioni e di internet a Bruxelles, che alcune volte sentiamo anche a 2024, ci ricorda e scrive che la Commissione europea dovrebbe presentare a breve, nel giro di poche settimane, un provvedimento che è stato già battezzato Digital Service Act, che è una proposta di revisione delle regole che porteranno ad un ripensamento del regime giuridico delle grandi piattaforme online, un tema estremamente interessante vista la pervasività e l'importanza che oramai queste piattaforme hanno nella nostra vita, pensate anche nel dibattito pubblico, nel dibattito politico e anche ad alcune conseguenze come la Brexit o le elezioni americane che sono state violentemente condizionate dall'uso dei social network. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Iniziamo dalle notizie che riguardano il nostro paese. La filiale italiana di Deutsche Bank ha deciso di fare migrare i propri sistemi in cloud e ha scelto i servizi dell'italiana Cedacri, che è uno dei player più importanti per i servizi digitali sviluppati per il settore bancario. In questo modo Deutsche Bank non ha più i propri server, i propri data center, ma usa solo i servizi di Cedacri, diciamo in abbonamento, il cosiddetto software as a service. È interessante che questo sia il primo progetto di questo genere realizzato con un partner italiano da parte di un grande istituto internazionale. Adesso invece parliamo di una startup italiana molto giovane, fondata nel 2017, si chiama Commerce Layer, che ha annunciato di aver ottenuto un finanziamento da 6 milioni di dollari guidato dal fondo americano Benchmark Capital. Commerce Layer è un servizio che trasforma un sito web in un sito di e-commerce, cioè sostanzialmente a fronte di un sito internet questa tecnologia permette di aggiungere le funzioni tipiche dell'e-commerce, aggiungendo appunto questo layer, questo strato di software. Anche in questo caso parliamo di servizi erogati in cloud. Da questa settimana sono ufficialmente disponibili in Italia, lo erano anche fino a poco, cioè lo erano già adesso, però diciamo che da questa settimana lo sono ufficialmente con il supporto di Google, i computer portatili Chromebook basati sul sistema operativo Chrome OS, che negli Stati Uniti sono diventati un'alternativa molto importante fra i portatili. Allora, ovviamente Apple e tutti i prodotti Windows hanno la maggiore fetta del mercato anche negli Stati Uniti, ma Chrome OS in questi anni, pensate che è già 9 anni che esiste questo sistema operativo, ha già un quarto del mercato americano. Sono prodotti abbastanza economici che stanno, diciamo, fra i 350 e i 500 euro con punte verso i 700 e sicuramente sono adatti per chi fa un uso massiccio dei servizi Google. Se uno non fa un uso massiccio dei servizi Google, beh, possiamo metterci a discutere. Le stesse persone che lavorano in Google, che uno dice, useranno tutti i Chromebook, no? Dipende che cosa uno deve fare, e devo dire che praticamente tutte le persone che io ho sempre visto di Google, o comunque molte persone che lavorano in Google, le ho sempre viste con i Mac. Non solo negli Stati Uniti, anche in Italia. Allora, Volkswagen ha acquistato una quota del 26,5% di un produttore di batterie cinese, la Guangzhuang, anzi sicuramente ho pronunciato male, Guangzhuan High Tech, pagando circa 750 milioni di euro, diventandone il primo azionista. Questa notizia è importante perché spesso parliamo dell'elettrificazione della propulsione per i prossimi anni, non solo di guida autonoma ma anche di guida con sistemi elettrici, e il problema è che tu puoi fare anche motori elettrici e le auto elettriche, ma se non hai poi le batterie, non hai la fornitura di batterie, vai poco lontano, un po' come fare l'automobile senza il serbatoio, no? E quindi questo è un investimento strategico per assicurarsi importanti forniture di batterie. Parliamo di Cisco, che ha messo a segno una nuova acquisizione nel settore del software comprando una società che si chiama Thousand Eyes per $1 miliardo. Allora, tradotto il nome di questa società sarebbe un migliaio di occhi. Infatti questa società produce un software per fare analisi del traffico della rete, un po' come dire, c'ho talmente tanti occhi che riesco a vedere tutto quello che succede in rete, che è una cosa che Cisco fa già con i propri software, i propri sistemi, ma evidentemente questo era un pezzettino del puzzle che faceva comodo a Cisco, anche perché l'ha pagata solo $1 miliardo, uno dice, vabbè, non è che l'ha pagata moltissimo, viste certe quotazioni in questo momento sul mercato. In tutto il mondo c'è una forte richiesta di automazione per evitare che le persone si incontrino. Allora, non fa eccezione la consegna dei prodotti, in modo particolare quelli acquistati in e-commerce. Allora, in un sobborgo residenziale di Houston in Texas, che si chiama Bel Air, quanti saranno i sobborghi di una città americana che si chiamano Bel Air? Tantissimi. Allora, la catena di farmacie CVS ha cominciato a fare test con la Nuro, che, se ricorderete, avevamo già parlato di questa Nuro, scritto così con la N, Nuro, che usa delle Prius, delle Toyota Prius a guida autonoma per la consegna, in questo caso delle medicine. La californiana Nuro produce un piccolo, non so se chiamarlo furgoncino, è un po' sviante, no, carrello, diciamo così, a quattro ruote che guida da solo, e questo tipo di veicolo è già in servizio per la catena di supermercati Kroger proprio a Houston. Un altro esempio che va in questa direzione è quello di un bar di Dajeon in Corea del Sud che consegna il caffè al tavolo al posto del cameriere. È un piccolo robottino, diciamo che nelle fabbriche cose del genere ci sono già da molto tempo, ma il problema è che nelle fabbriche è tutto organizzato e puoi essere più sicuro di dove vanno i robot. In un bar la cosa è un po' più difficile. Questi robottini portano il caffè al tavolo. A proposito di auto a guida autonoma, la giapponese SoftBank ha guidato un investimento da 500 milioni di dollari nella divisione per la guida autonoma della cinese Didi. Didi è la Uber cinese e Didi sta già facendo test da qualche anno per i sistemi di guida autonoma in California, a Pechino, a Shanghai e a Suzhou. La cinese Tencent, che è nota soprattutto per WeChat, il sistema con il quale in Cina si fa, non dico tutto, però molte cose, ovviamente tutto è partito dalla chat, non a caso si chiama WeChat, però si paga, si prenotano cose, insomma, si compra, si fa un sacco di cose. Allora, la Tencent ha annunciato che investirà 70 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per potenziare le proprie infrastrutture cloud, e quindi data center, supercomputer, sistemi di intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Un'ultima notizia arriva dagli Stati Uniti, che si confermano il terreno più fertile per la nascita di nuovi servizi di video in streaming. A metà di questa settimana è arrivata anche HBO Max. Allora, ricordiamo che HBO è uno dei più importanti produttori e distributori di contenuti video. Molti sono abbonati ai sistemi via cavo di HBO negli Stati Uniti, questa è una piattaforma diversa. E poi anche alcune delle molte delle serie TV più note sono state prodotte o trasmesse dalla HBO, quindi un player molto importante. Per il momento non pare che arriverà presto in Europa, comunque in Italia, visto che tra l'altro HBO ha un accordo con Sky per la diffusione di produzioni per quanto riguarda il mercato italiano. Tra poco parleremo di monopattini e biciclette elettriche, quindi monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita, così si dice, o e-bike. Poi vi darò un aggiornamento sull'app Immuni, ci sono alcune notizie della settimana. Adesso invece parliamo di riconoscimento facciale. Perché? Perché con le proteste che si sono riaccese ad Hong Kong e il desiderio di alcuni stati poco democratici di tracciare le persone positive al coronavirus con questo tipo di tecnologia, torna di attualità il riconoscimento facciale con tutti i rischi del caso. E visto che noi in Europa abbiamo la possibilità di dibattere e di scegliere, o comunque di cercare di scegliere se utilizzare o meno queste tecnologie, e devo dire che in Europa c'è un dibattito su questo tema, è bene parlarne, perché in alcuni casi stiamo parlando di tecnologie molto comode per sbloccare il display, per accedere ad un locale, magari per imbarcarsi su un aeroplano, ma in molti casi i sistemi di intelligenza artificiale che stanno dietro a i sistemi di riconoscimento facciale, non è che siano così intelligenti e bravi, fanno molti errori, fanno ancora molti errori. Ne vogliamo parlare con Fabio Chiusi, che è un giornalista, uno scrittore, si occupa di cultura e tecnologia, anche di politica, attualmente coordina un progetto di ricerca presso la ONG tedesca Algorithm Watch ed è anche uno degli autori di Valigia Blu, ha scritto alcuni articoli molto interessanti proprio sul riconoscimento facciale. Fabio, benvenuto a 2024. Grazie a voi. Quando si parla di riconoscimento facciale, a molti viene in mente sicuramente lo sblocco dello smartphone con il proprio viso. In realtà stiamo parlando di una serie forse un po' diversa di applicazioni anche di tecnologie. Sì, assolutamente. Ci sono diversi tipi di riconoscimento facciale, alcuni più pericolosi, diciamo, altri meno. Quello dello sblocco del cellulare è una delle cose probabilmente meno pericolose, meno invasive, perché almeno per quanto ne sappiamo, insomma, i dati che noi comunichiamo con il nostro smartphone, quando noi abbiamo una funzione, diciamo, di identificazione, no? Cioè lo smartphone riconosce che siamo noi di fatto, questi dati dovrebbero rimanere all'interno di una parte molto protetta, diciamo così, e tra l'altro cifrata, quindi nascosta, non in chiaro all'interno del telefono, non dovrebbero uscire da lì, quindi non dovrebbe porsi un grosso problema di invece identificazione di massa o di sorveglianza o di verifica dell'identità in contesti pubblici o dal vivo, no? Penso per esempio agli stadi, sì. Penso per esempio all'ingresso nelle scuole, no? Cose che stanno venendo testate non soltanto in Cina o negli Stati Uniti come si legge, ma noi ad Algorithm Watch in Germania ci stiamo occupando di questa cosa in Europa, la stiamo studiando in Europa, e per esempio le forze dell'ordine stanno usando queste tecnologie di riconoscimento facciale in 10 paesi d'Europa, abbiamo scoperto, e ce ne saranno molti altri nei prossimi anni, e soprattutto queste tecnologie vengono usate in sempre più contesti, quindi come dicevo scuole, possono essere ospedali, possono essere prigioni, casinò, cioè dappertutto. Sì. E quindi diciamo stiamo parlando di cose piuttosto diverse però, quindi la cosa fondamentale è capire bene o male di cosa stiamo parlando. Anche l'Unione Europea nel suo ultimo intervento, nel white paper che ha pubblicato da poco sull'intelligenza artificiale, propone una distinzione proprio in questo senso tra due tipi di tecnologie di riconoscimento facciale, una molto meno invasiva che serve all'autenticazione, diciamo proprio come quella dello smartphone, no? E l'altra che serve invece a identificare per esempio un sospetto all'interno di un contesto pericoloso, in un quartiere, piuttosto che una persona che non aveva diritto ad accedere allo stadio, no? E quindi cerca di entrare e dovrebbe essere identificata da questi sistemi. Ecco, queste cose sono molto più controverse, io personalmente sono contrario. Ecco. Senti, ti faccio una domanda rispetto agli altri sistemi di riconoscimento basati sulla biometria, quindi su i dati del nostro corpo. Un altro dei sistemi a cui noi siamo stati abituati o comunque di cui si è parlato moltissimo è il riconoscimento dell'impronta digitale. Io metto il dito sullo smartphone per sbloccarlo, oppure metto il dito su un lettore per, che ne so, entrare in una porta o per autenticarmi per altre cose. Se dal tuo punto di vista, quando parliamo di riconoscimento facciale e dei rischi, di cui poi parleremo tra poco, sì, parliamo degli stessi rischi anche per gli altri sistemi di riconoscimento biometrico, e sappiamo che ce ne sono tanti, tanti altri, l'iride oppure anche tante altre tecnologie più sofisticate, o il riconoscimento facciale ha degli aspetti particolari? Ma è una domanda molto complessa. Dal punto di vista legale, credo che non ci sia tutta questa differenza, nel senso che se noi andiamo a vedere la legislazione europea, per esempio, cioè GDPR, che è la normativa che da un paio d'anni diciamo, è in vigore in Europa per proteggere la nostra privacy fondamentalmente, ed è considerato un modello, parla di dati biometrici in generale, non parla di riconoscimento facciale in particolare. Per cui naturalmente tutto quello che può identificarci come persone, che sia l'iride, che sia il codice genetico, che siano, no? Che siano mille altre cose, ecco, tutte queste cose naturalmente presentano dei rischi enormi, perché sono i dati più sensibili che ci sono. Del resto noi abbiamo un'iride, un tipo, cioè ne abbiamo, insomma, abbiamo due occhi, ma quelli sono, no? E abbiamo un volto, non è che possiamo cambiarlo, possiamo magari farci delle plastiche, che ne so, possiamo metterci una mascherina, abbiamo visto che in Cina mettendosi la mascherina il riconoscimento facciale ha problemi, no? Però ecco, a parte le battute, sono dati estremamente sensibili che vanno trattati con estrema cautela, e ci sarebbero anche delle cautele anche legali, diciamo, che andrebbero applicate prima in teoria di di usare queste tecnologie e di usare questi sistemi di riconoscimento, no? Molto spesso naturalmente queste cose non vengono fatte e soprattutto molto spesso non si coinvolge il pubblico, non si coinvolgono le persone che sono poi il bersaglio di queste misure, no? Che sono quelle su cui vengono esercitate queste forme di controllo, non si chiede se sono d'accordo o meno, quando glielo si chiede si scopre che sono molto poco d'accordo di solito. È uscito un dato da poco pubblicato la settimana scorsa, qualche giorno fa, insomma, fondamentalmente non è una il 17%, 20% in tutta Europa è d'accordo con il fatto, per esempio, di avere i propri volti consegnati alle forze dell'ordine per essere analizzati. Sono molto pochi, ecco, questa è un po' l'idea, no? Sì, ecco, prima facevi riferimento a 10 paesi dove già oggi le forze di polizia utilizzano il riconoscimento facciale per scopi ovviamente di sicurezza in spazi, certo, pubblici, come possono essere piazze, stadi, eccetera. Tra questi c'è anche l'Italia? Sì, assolutamente. L'Italia usa questo sistema chiamato SARI, di cui conosciamo poco. Per dire la verità, un deputato, Filippo Sensi, ha fatto un'interrogazione parlamentare recentemente e gli è stato risposto in maniera abbastanza, diciamo, vaga, no? Sappiamo che c'è qualche milione abbiamo il numero dei volti, delle fotografie che ci sono in questo database a disposizione delle forze dell'ordine, ma non sappiamo, per esempio, come funziona. Esattamente, non sappiamo se funziona, cioè non sappiamo quali tassi di falsi positivi o falsi negativi, cioè quanti riconoscimenti corretti o meno ci sono davvero, no? E non sappiamo bene con quali tutele vengono trattati questi dati, cioè naturalmente noi confidiamo nel fatto che in Italia siamo in uno stato democratico molto avanzato dal punto di vista della privacy, abbiamo un garante, abbiamo delle leggi, le forze dell'ordine di norma le rispettano. Però naturalmente la trasparenza è molto scarsa, no? Una delle cose che si è scoperto, per esempio, è che invece quest'altra applicazione che ha fatto molto discutere a livello mondiale, Clearview, no? È un'applicazione dove fondamentalmente di una startup americana che tramite semplicemente inserendo il nome di una persona riesce a ricostruire tutte le foto pubbliche pubblicamente disponibili su internet di questa persona, i suoi contatti e tutto il resto. Quindi è una cosa che è stata presentata al New York Times come l'app che potrebbe distruggere la privacy addirittura, no? Questa app qui, BuzzFeed, ha rivelato qualche tempo fa che fondamentalmente sarebbe in uso anche in Italia. Un mio collega, un giornalista, Riccardo Coruccini, ha chiesto conto di questa cosa e gli è stato risposto che alle forze dell'ordine non risulta. Quindi, insomma, c'è una contraddizione lì, qualcuno non la sta dicendo giusta, naturalmente, bisogna capire però come app di questo tipo vengano usate in realtà da moltissime forze dell'ordine e anche da soggetti privati in tutto il mondo. Quindi questa è una cosa che dovrebbe preoccuparci, cioè chi controlla questa forma di controllo. Sì, sì, tra l'altro Clearview AI, questo sistema, questo servizio di cui tu hai parlato, di cui si è parlato recentemente, dopo che il New York Times ha pubblicato questa inchiesta, si sta discutendo anche fino a che punto sia lecito che questi vadano a prendere una fotografia che io ho messo su un social network per altri usi. Effettivamente, insomma, questo è un tema molto... in generale, secondo il tuo parere, ma anche, diciamo, secondo il parere delle tante istituzioni, associazioni che molto spesso criticano l'utilizzo molto alla leggera di questi sistemi, ecco, quali sono i principali rischi? Ma guarda, io vedo un rischio esistenziale prima di tutto, cioè nel senso stiamo costruendo sistemi di controllo di massa che usati nella maniera giusta probabilmente possono anche essere positivi nella società, no? Ammesso che ci sia una maniera giusta di usarli, ma che usati tutti insieme e messi lì a disposizione di chiunque diventano pericolosi, cioè io non credo che una società in cui si sia sempre osservabili, sempre riconoscibili, sempre identificabili in generale, no? Da tutto questo insieme di forme di controllo, che sia il riconoscimento facciale, che sia l'analisi dei big data, che sia l'analisi di quello che noi pubblichiamo sui social media, come dicevi tu, l'analisi dei contenuti che noi mettiamo pubblici su internet ma a cui non diamo il consenso certo per essere trattati in quel modo, per esempio, no? Ecco, tutto questo insieme di cose costruisce una sorta di stato della sorveglianza che secondo me è fondamentalmente e radicalmente incompatibile con il concetto di democrazia liberale, di democrazia che abbiamo, che conosciamo, insomma, che abbiamo conosciuto dal secondo dopoguerra a oggi fondamentalmente, no? Dopodiché, se si vuole parlare di limiti del riconoscimento facciale, il riconoscimento facciale per esempio ha dimostrato limiti dal punto di vista di discriminazioni sistematiche verso certe categorie sociali, quindi per esempio verso le donne, verso le persone di colore, in maniera sproporzionata rispetto agli errori che commette e che comunque commette anche verso gli uomini bianchi, per esempio. No? E dopodiché c'è questo appunto, questo problema dell'accuratezza del riconoscimento. In molti casi si è visto che fa cilecca, che in molti casi si è visto che i grandi proclami della 99% di risultati positivi, no? E di identificazioni corrette in realtà era marketing, ma soprattutto la mia idea è più radicale, cioè anche se ci fosse un sistema che ha un'accuratezza del 100%, siamo sicuri che sia il caso di implementarlo in una società libera? Che sia una qualcosa di compatibile col vero libero arbitrio, con la vera libertà dell'individuo, no? E questo, quando si pensa che questi sistemi vengono usati nelle scuole, per esempio, o vengono messi per controllare a distanza gli studenti, come succede in Cina o in altri paesi, no? Dove il genitore può, e non solo in Cina, dove il genitore può da remoto controllare cosa sta facendo il proprio figlio continuamente. Il figlio avrà anche diritto a sperimentare, avrà diritto a sbagliare, come abbiamo avuto diritto tutti, o deve essere sempre perfetto, sotto controllo, tutelato, controllato, irregimentato. Cioè è una cosa che anche psicologicamente è nociva, secondo me, sì, per lo sviluppo di una persona. Sì, sì, anche, quindi è una serie di considerazioni ampia, capisci? Sì, sì, no, sono d'accordo. Anche il concetto di fiducia cambierebbe, esatto, molto. Parlo in questo caso, visto che tu hai citato i figli, il concetto di fiducia tra genitori e figli, e anche viceversa, ovviamente. Senti, di fronte a chi dice: vabbè, ma io non ho nulla da nascondere, primo, oppure ma questi sistemi, se ci permettono di scoprire, intercettare, individuare e catturare i cattivi, criminali, eccetera, perché non utilizzarli? Allora, prima di tutto non sono così efficienti nell'identificare i cattivi come sembrerebbe o come vorrebbero farci credere. Diciamo questo che da questo punto di vista, forse aspettando qualche anno, magari i sistemi migliorano e quindi poi i margini di errore si ridurranno di molto, immagino. Questo potrebbe darsi, sì, però il punto è che molto spesso trovare dei terroristi, per esempio, non è una questione di computare informazione. È un problema diverso, non è un problema tecnologico il terrorismo, no? È un problema di, per esempio, avere delle fonti sul campo, fare human intelligence, cioè avere delle persone che si infiltrano in certi ambiti, no? Cioè, questo lo sanno meglio di me quelli che fanno questo lavoro. Molto spesso le due cose si completano, quindi naturalmente potrebbe comunque essere utile. Il punto è che noi, quando mettiamo dei sistemi di questo tipo in utilizzo a livello massivo in una società, bisogna capire poi chi li usa, no? Cioè, non possiamo essere ciechi rispetto al fatto che, per esempio, anche Freedom House, molti altri rapporti dicono che la democrazia è in continuo declino a livello globale e in molti paesi occidentali soprattutto. Quindi voi potreste non avere niente da nascondere con un governo di oggi, che vi piaccia o meno è un governo democratico. Se domani il governo non è più democratico, o non lo ricorda più, o lo ricorda soltanto in modo formale, ma in realtà non lo è, come è successo già in molti paesi europei, per esempio, siete sicuri che non avrete più nulla da nascondere? Non è una questione banale. Cioè, la questione è: quando i dati sono lì, vengono immagazzinati, i sistemi sono messi in funzione, poi chi li usa? Adesso in Russia, per esempio, stanno incominciando a usare il riconoscimento facciale per identificare chi ha il coronavirus e lasciarlo in quarantena. E se poi questi sistemi vengono tenuti lì per fare altre cose, vengono per esempio presi in paesi democratici e usati in maniera non democratica, siete proprio sicuri che non avrete più nulla da nascondere? Cioè, bisogna pensare anche in maniera evolutiva, no? Bisogna pensare, sì, nel tempo. Sì, sì, no, questo è importante, certo, sì, sì. Questo riguarda anche i rapporti tra nazioni, e qui veniamo poi all'Unione Europea. L'Unione Europea giustamente dice: dobbiamo avere sovranità tecnologica, ma poi nei fatti non si capisce bene che tipo di strade dovremmo prendere per avere questa sovranità tecnologica, che riguarda anche i sistemi di riconoscimento facciale e di intelligenza artificiale. Ecco, a tal proposito, poi ti chiedo un parere su quello che sta facendo l'Unione Europea, anche se come dire, ci risentiamo poi tra qualche mese e vedremo se questo dibattito che l'Unione Europea ha attivato darà qualche frutto. Però prima di citare e parlare di Unione Europea, volevo chiederti se c'è un rischio di mancato sviluppo tecnologico. Mi spiego: se soprattutto Stati Uniti e soprattutto la Cina o anche altri paesi utilizzano questi sistemi e quindi di fatto riescono ad addestrare i sistemi di intelligenza artificiale, perché sappiamo che dietro a un sistema di riconoscimento facciale poi c'è sempre questo, ci sono queste due paroline magiche, intelligenza artificiale. Ecco, se questi paesi vanno avanti, c'è il rischio che loro aumentino ancora di più il divario tecnologico con noi, proprio perché possono fare questo senza grossi problemi, e abbiamo visto anche per altre tecnologie. Questo sicuramente, nel senso, c'è già questo divario. Se voi pensate ai grossi colossi tecnologici, gran parte dei servizi che usiamo tutti i giorni non sono europei, a parte Spotify, penso, e poco altro, no? Quindi naturalmente questo rischio c'è. Dall'altro lato bisogna capire anche che cosa diventerà valore in futuro, però. Per esempio, un valore di marketing che è diventato un valore di marketing, anche non soltanto un valore fondamentale dell'individuo, è la privacy negli ultimi anni. Quindi la privacy è diventato uno dei modi in cui certe aziende stanno cercando di vendersi meglio e vendere le loro tecnologie meglio. Quindi, spiegandomi, siccome l'Europa sta cercando di diventare, diciamo, il modello di un'intelligenza artificiale, qualunque cosa sia, etica, a misura d'uomo, che rispetti i diritti fondamentali, no? Contrariamente, proprio ponendosi proprio in scontro geopolitico aperto, diretto con gli Stati Uniti, che invece dipingono come prima il profitto, no? E la Cina come prima il controllo sociale. Ecco, se dovesse diventare, come sta diventando, un valore anche proprio di mercato avere delle soluzioni etiche, questo potrebbe bilanciare le cose, perché uno potrebbe scegliere delle tecnologie che sono comunque avanzate, ma che sono rispettose dei diritti dell'individuo, no? Proprio perché questa cosa, magari diventando una consapevolezza diffusa a livello del pubblico, potrebbe portare a dare valore anche di mercato a queste società che facessero questo tipo di tecnologie. Certo. Per cui secondo me è un discorso molto visionario e molto utopistico, se uno vuole, ma corretto, perché questi sono problemi che le persone si porranno, perché questi sistemi stanno già impattando sulle loro vite in tutti i modi, dal welfare a tutto. Fondamentalmente sì, ogni cosa. Questo è molto interessante. E quindi questa cosa potrebbe diventare importante. Ecco, sì, sì, un po' come lo è diventato, poi anche qui c'è spazio per crescere, il concetto di sostenibilità bio in ambito, in ambito agroalimentare. Cioè, questo potrebbe diventare sempre più. Certo, come tu dicevi, ci sono già delle aziende che cercano di sottolineare per alcuni sistemi il rispetto della privacy, però potrebbe diventare più pervasivo. E ecco, venendo all'Unione Europea e concludendo brevemente, ci si aspettava dall'Unione Europea una presa di posizione un po' più importante rispetto ai sistemi di riconoscimento facciale. Per adesso non hanno di fatto deciso, cioè hanno un po' rimandato dicendo: vabbè, dobbiamo dibattere, dobbiamo farci un po' di domande, dateci delle risposte, vedremo. Esatto, sì, è mancato un po' il coraggio di decidere, è un peccato, perché nei draft precedenti, nelle versioni precedenti, sembrava che l'Unione Europea volesse mettere al bando certi usi pubblici del riconoscimento facciale per i prossimi 5 anni, proprio per capire se queste tecnologie sono compatibili con la democrazia e con i valori europei, no? Che loro, su cui l'Europa, diciamo, punta molto. Purtroppo non c'è stato questo, c'è stato però un buon impianto di fondo, secondo me, cioè l'idea di distinguere diverse tecnologie e, a seconda del rischio che presentano queste tecnologie e dell'impatto sulle persone concreto, decidere misure diverse. Quindi alcune tecnologie possono essere innocue, quindi essere liberamente utilizzabili, altre possono essere messe o al bando o fortemente regolamentate. Questa secondo me è una buona idea. Dopodiché quello che manca è l'enforcement, cioè come realizzare queste regole, quale roadmap, quale strada seguire per portare a delle regole che vengano rispettate e che prevedano, cosa che non c'è, delle sanzioni per chi non lo fa, sanzioni pesanti per chi invece viola. Perché se noi stiamo ad aspettare mesi o anni di dibattito, nel frattempo questo riconoscimento facciale, noi lo stiamo vedendo, studiando, anche col progetto che io dirigo ad Algorithm Watch in Germania, queste tecnologie stanno entrando ovunque, nel giro degli ultimi 12 mesi sono entrate ovunque. Quindi se noi stiamo ad aspettare anche solo un anno, sarà troppo tardi. Questo è il punto, bisognerebbe intervenire ora. Fermare la giostra e dire ok, ragioniamo, benissimo il dibattito, ma ragioniamo a bocce ferme e non mentre gli altri fanno quello che vogliono. È un po' diverso. Molto chiaro. Grazie a Fabio Chiusi per essere stato con noi, per averci fatto, spero, emergere un po' di domande. Grazie, a presto, buon lavoro. Grazie a voi. Quasi ogni settimana c'è una notizia sull'app per fare contact tracing in Italia, l'ormai famosa Immuni. Bene, questa settimana è stato pubblicato su GitHub il codice sorgente. Tutti gli sviluppatori, insomma gli smanettoni, gli esperti erano in attesa di questo codice sorgente. Ricordo che GitHub è la piattaforma che Microsoft si è comprata nel 2018 pagandola 7,5 miliardi di dollari, che viene utilizzata in tutto il mondo dalla maggior parte dei programmatori come strumento per lo sviluppo collaborativo del codice, quindi del software. E nei progetti open source come Immuni, questo software viene reso pubblico affinché sia controllato e corretto da altri sviluppatori. Quindi io sviluppo un'applicazione, un software particolare, lo pubblico e gli altri che sono esperti vanno, lo guardano, controllano e se c'è qualcosa che non va me lo fanno presente. Finora su Immuni non sono stati rilevati problemi importanti, rilevanti. A proposito di applicazioni sul contact tracing, ricordiamo alcune cose importanti, visto che ancora oggi sentiamo persone che dovrebbero essere esperte, invece non hanno capito nulla di come funzionano queste applicazioni, politici compresi purtroppo. Allora, intanto non bisogna pensare che l'app possa risolvere tutti i problemi. C'è chi dice adesso abbiamo l'app, quindi no. Un'app di contact tracing è un pezzetto di un processo che il sistema sanitario di una nazione moderna deve avere per individuare rapidamente le persone infettate dal virus, curarle, spezzare le catene di contagio. Però se poi hai poca capacità, ad esempio, di fare tamponi, questo sistema da qualche parte fa acqua. E poi l'applicazione, come tutte le app basate sulla tecnologia di Apple e Google, non raccolgono né la posizione né informazioni personali. Anche questa settimana ho sentito qualcuno, gente che dovrebbe appunto saperlo, che diceva che faceva riferimento alla posizione. No! Quindi non c'è nessun problema di privacy, anzi, per alcuni fin troppi pochi problemi. Semplicemente due smartphone che rimangono per un certo tempo, ad una certa distanza. Questi sono due parametri che non sono ancora stati comunicati, ma insomma poco cambia, non è lì il problema. Si scambieranno codici anonimi e casuali e ogni telefono terrà una lista di tutti gli smartphone che incontrerà. Se uno di questi smartphone appartiene ad un proprietario che si ammala, dopo aver fatto il tampone potrà decidere di attivare la notifica di esposizione, così viene chiamata. In questo modo tutte le persone con cui si è trovato a contatto ad una distanza per un certo tempo giudicati a rischio, vengono avvisati. Questo fa l'app di contact tracing. C'è chi ha più volte sottolineato che la mancanza di dati GPS e anche la mancanza di un database centralizzato rendano meno efficace questo tipo di strumento. Però poi, insomma, tutti quelli che gridavano ai problemi di privacy continuano a gridare, insomma, in questo modo comunque Apple e Google hanno messo tutti più o meno tutti a tacere, perché questi sistemi, insomma, sono piuttosto rispettosi della privacy dei cittadini. Ad esempio la Francia, che diciamo nell'Europa continentale è l'unica ad aver intrapreso una strada diversa dagli altri, perché anche i tedeschi stanno facendo come noi, tutti gli altri paesi stanno facendo come noi, e la Francia ha deciso di usare un'applicazione che tra l'altro dovrebbe essere disponibile a giorni, che usa sempre il Bluetooth come tecnologia ma ha un sistema centralizzato che pone maggiori problemi di privacy. Però alcuni dicono, con anche buone ragioni, che la centralizzazione del database potrebbe rendere il tutto molto più efficace ed efficiente. Comunque, aspettiamo, la prossima settimana dovrebbe essere pubblicata l'applicazione sugli smartphone, quindi la scaricheremo e la utilizzeremo. Saluto Massimiliano Zocchi, esperto di mobilità elettrica, anima del sito dmove.it, per parlare di monopattini e biciclette elettriche. Massimiliano, benvenuto 2024. Grazie, grazie Enrico. Di fronte ad una persona che potrei anche essere io, visto che non possiedo una bicicletta, men che meno uno scooter, uso il bike sharing, ma potrei pensare di fare un acquisto, visti anche gli incentivi, o una bicicletta elettrica o un monopattino elettrico. Una prima considerazione da fare quale potrebbe essere? Ma sicuramente tu sei nel target, e la prima discriminante che un ipotetico consumatore deve fare è pensare al tipo di tragitto che deve affrontare quotidianamente. Quindi se io ho il monopattino, sicuramente poi avrò una facilità quando raggiungo il posto di lavoro nel, ad esempio, piegarlo e portarmelo in ufficio senza dovermi preoccupare di parcheggiarlo in strada. Se sono anche un pendolare, quindi prendo prima il treno e poi arrivo nella città dove lavoro e poi da lì mi sposto ancora, il monopattino sempre è un po' più facile da trasportare, lo piego, lo metto sotto il sedile dove mi siedo nel treno o nello spazio dei bagagliai, insomma è un pochino più semplice. La bici invece da trasportare è sicuramente più complicata e potrebbe rivelarsi un mezzo più adatto a chi risiede già nella città dove poi lavora e non ha poi difficoltà nel riporla, nel parcheggiarla, magari ha un cortile interno dove non rischia che possa essere rubata. Insomma, una discriminante in questo senso, la facilità nel trasportare il mezzo quando non lo devo utilizzare. Ok, chiaro. In ogni caso, secondo te si possono fare anche molti chilometri con il monopattino o è meglio la bicicletta in questo caso? Secondo me c'è un limite che può essere un po' personale, però bisogna ricordarsi che il monopattino si guida esclusivamente in piedi, sono vietati quelli col sellino dalla normativa attuale, per cui secondo me fare più di 5, 6, diciamo anche 10 km nei casi più estremi in monopattino, stando sempre in piedi, a una velocità media magari di 15 km orari, insomma ci può volere anche un'ora, e quindi fare un'ora di strada sempre completamente in piedi con le sconnessioni della strada o del terreno può essere un po' faticoso. Quindi sopra quelle distanze la bici invece diventa molto più comoda. Sono seduto, sono comodo, magari ho gli ammortizzatori, quindi non sento le buche. Una differenza di questo tipo. Monopattino io direi già 10 km è già una distanza secondo me molto alta. Starei un pochettino più basso come limite massimo. Parlando di monopattini, a cosa dobbiamo stare attenti? Quali sono le caratteristiche più importanti da mettere in evidenza? Ma ancora una volta il percorso che dobbiamo fare quotidianamente può essere un'indicazione, perché i monopattini esistono con motori di diverse potenze e quindi se io so che affronterò una strada completamente in piano posso anche buttarmi magari su un prodotto che ha un motore di 200-250 watt, queste sono le potenze dei modelli più semplici. Ma se magari so che devo affrontare qualche piccolo saliscendi o magari io non sono proprio in forma e peso qualche chilo in più, scegliere un prodotto che ha un motore magari da 350 o anche 500 watt, che è il massimo che permette la normativa, può essere una buona idea, perché questo mi permette di andare a una velocità maggiore, il prodotto non fatica negli spostamenti più complicati e quindi ci metto anche meno tempo e il tragitto diventa più semplice. Ok, poi? Dopodiché si potrebbe pensare al comfort durante il tragitto. I monopattini hanno una grandissima variabilità di dimensione delle ruote, dalle più piccole sui 5 pollici fino anche a 10-12 pollici. La ruota più è grande, più mi dà comfort durante la marcia perché non sento le piccole sconnessioni, ma può essere anche gommata in maniera diversa. Ci sono pneumatici gonfiabili, esattamente come quelli delle biciclette, o ci sono anche pneumatici di gomma piena, quindi non rischio che si possano bucare come succede con le bici, però la gomma piena ovviamente non ammortizza quasi nulla, quindi tutte le piccole sconnessioni o le buche poi mi si ripercuotono magari sulla schiena e può essere un pochino più complicato andare in giro in questo modo. La gomma gonfiabile, allo stesso modo, si adatta un po' di più alla strada, mi dà più sicurezza in marcia e scivola meno anche quando magari c'è un pochino di umidità. Quindi, secondo me, le discriminanti maggiori sono queste due, la potenza del motore e il comfort di marcia. Certo, la ruota che si gonfia si può bucare, questo è uno dei problemi. Esatto, sì, tu devi mettere in conto che se scegli quello avrai sicuramente un comfort maggiore, però hai una piccola percentuale di rischio che ti possa capitare l'inconveniente. ancora non ci sono tanti negozi specializzati che si occupano di cambio gomme, cambio camere d'aria nei monopattini, però piano piano la situazione sta cambiando e delle piccole realtà stanno venendo fuori. Scusa, rimaniamo un attimo ancora sulle ruote. A prescindere che siano gonfiabili o piene, mi verrebbe da dire meglio le ruote grandi, ma quali sono i pro e i contro in questo caso? Beh, la ruota grande, come dicevo prima, ti dà un maggiore comfort perché è in grado di superare i piccoli ostacoli con più semplicità, ammortizza meglio, soprattutto nel caso abbia una gomma gonfiabile. D'altro canto però il monopattino aumenta sensibilmente di dimensioni, perché la ruota comunque, anche quando tu lo ripieghi e lo riponi, la ruota è un componente che rimane nella sua dimensione fissa, non può essere ridotta. Quindi avere un monopattino come ne stanno arrivando adesso sul mercato, che hanno magari anche ruote da 12 pollici, anche quando è chiuso ha un certo ingombro rispetto a uno che magari ha una ruota da 6 pollici, 8 pollici, 8 pollici e mezzo. Senti, il motore, abbiamo capito che partiamo dai 200-250 watt fino ai 500, immagino che il vantaggio, uno dei vantaggi principali del motore piccolo è che consuma meno, consuma poco, poi ovviamente dipende anche dalla batteria, quindi parliamo anche di batterie, di autonomia, eccetera. Sicuramente un motore meno potente ha un consumo minore, la cosa però va di pari passo con le batterie con cui vengono equipaggiati i prodotti. Di solito i prodotti che hanno i motori meno potenti stanno in un range di prezzo un po' più basso, per cui di conseguenza anche la batteria che viene messa nel prodotto ha una capacità minore. Quindi diciamo che l'utente poi all'atto pratico non si accorge effettivamente di avere un vantaggio. Avrà un motore che consuma di meno, ma allo stesso tempo una batteria più piccola e quindi l'autonomia sarà all'incirca uguale. Ok, chiaro. Quali sono mediamente le autonomie? Si parte da prodotti che hanno 20-25 km fino anche ai top di gamma che possono arrivare anche a 50 km. Sempre parlando di un peso medio del possibile utente, ecco. Poi ci sono i casi in cui uno è una persona molto leggera e quindi avrà più autonomia e una persona più pesante ne avrà di meno, però diciamo che le medie sono queste. Beh, visto che abbiamo detto che uno dei vantaggi del monopattino è che me lo ripiego e o lo metto nel baule dell'automobile oppure lo porto sul treno, su un mezzo pubblico nei momenti in cui non lo utilizzo, magari mi sposto con un altro mezzo, quanto pesano? Che è importante. Anche qui ci possono essere delle variazioni dovute ai componenti, ma diciamo che indicativamente si può considerare tra i 12 e i 15 kg. Prima di parlare di biciclette, un ultimo accenno ai prezzi dei monopattini. Allora, si può andare tranquillamente da prodotti più semplici che partono appena sotto le 200 euro. Poi abbiamo una grande varietà di prodotti che sta in un range tra i 300 e i 350 euro. Poi abbiamo dei prodotti che sono già di fascia che io considererei medio-alta, che sono il classico 499 euro, quindi diciamo 500 euro. E poi ci sono anche delle eccezioni di prodotti che sono di altissima gamma, quindi hanno delle prestazioni effettivamente superiori con componentistica un po' più di qualità, che possono anche arrivare intorno ai 1000 euro. Senti Massimiliano, ti chiedo un parere sulla sicurezza almeno percepita di questi strumenti. Ricordiamo che sono stati per legge equiparati alle biciclette a pedalata assistita, non è obbligatorio il casco. Esatto. Dalla tua esperienza, come li giudichi? Sono pericolosi o no? Guarda, io ti dico con l'esperienza mia personale diretta, quindi l'ho provato anche in strade abbastanza trafficate, il prodotto in sé non ha una particolare pericolosità insita nel suo utilizzo. Si manovra bene, è comodo, la velocità non è eccessiva, se si rispettano i limiti stabiliti dalla normativa ovviamente. La pericolosità deriva più che altro da quello che ti sta intorno. Ad esempio gli automobilisti sono ancora poco abituati ad avere il colpo d'occhio su il monopattinista. Certe volte quasi non ti vedono proprio, perché sembri un pedone, ti vedono all'ultimo secondo, frenano, magari tu entri nella rotonda, loro pensano di riuscire a passare perché non sanno che tu riesci ad andare comunque a una velocità discreta. Quindi il prodotto in sé si guida tranquillamente, non ci vogliono particolari capacità. C'è bisogno ancora di un po' di abitudine da parte di tutti gli altri. Beh sì, effettivamente è una questione anche di arredo urbano. Questo strumento, i monopattini, fino a qualche anno fa, monopattini elettrici, non esisteva. Esistevano, ma erano cose rare, o magari le usavano i bambini, i ragazzini, i monopattini a spinta. A proposito di spinta, diciamo anche che il monopattino elettrico comunque parte con un abbrivio umano, cioè non è che parte elettrico, come la bicicletta, cioè deve essere, lui assiste, poi dopo va avanti per conto suo. Comunque la partenza è fatta con il piede. Adesso ti chiedo qualcosa sulle biciclette, in questo caso quali sono le caratteristiche alle quali dobbiamo stare attenti, insomma le cose principali più importanti? Allora, la primissima caratteristica, un po' come nel monopattino, dipende dal percorso che bisogna fare. Ci sono bici elettriche, chiamiamole a pedalata assistita o e-bike, come si dice in inglese, anche va bene lo stesso, che sono pieghevoli e quindi possono diventare abbastanza piccole da essere trasportate anche su mezzi pubblici, su treno, bagagliaio dell'auto, abbastanza in comodità. Quindi questa può essere una scelta per chi ha bisogno di trasportare il prodotto appunto per alcuni tratti. Ci sono poi invece le bici, chiamiamole full size, quindi a dimensione normale a cui siamo abituati, come le bici da strada, le mountain bike, che però hanno, rispetto ai monopattini, un range molto più ampio di caratteristiche, che poi segue anche un po' il prezzo, dalle più semplici fino a prodotti professionali o anche per sport di un certo livello, diciamo. Le caratteristiche da guardare possono essere il motore, anche qui, però diversamente dal monopattino qui è importante anche la posizione del motore. Il motore può essere messo nella ruota, quasi sempre è nel mozzo della ruota posteriore. Questa è una scelta che permette di fare prodotti più economici, perché praticamente ci si basa sul telaio di una normale bici che viene semplicemente convertita mettendo il motore nella ruota posteriore, però questo non è proprio il massimo a livello di utilizzabilità, perché sposta un peso discreto, quello del motore, in un punto alto e posteriore, quindi sull'equilibrio del mezzo non è proprio l'ideale. Sono un pochino meglio le bici a pedalata assistita, che hanno il motore nella posizione centrale, ovvero dove c'è la rotazione dei pedali, sia appunto per una posizione di peso, il baricentro va tutto in basso e al centro della bici, e poi anche il motore elettrico in questa posizione riesce a mixare meglio la sua potenza con quello della pedalata umana, perché è necessario forse ricordarlo, le bici a pedalata assistita erogano energia elettrica solamente quando io sto pedalando. Nel momento in cui io smetto di pedalare, anche il motore si disattiva immediatamente. Quindi avere un motore che si mescola perfettamente alla mia pedalata rende più fluido l'utilizzo. Cosa possiamo dire sulle potenze dei motori delle e-bikes? Ma sulle potenze in realtà la variabilità invece rispetto ai monopattini è decisamente inferiore, perché la normativa europea, in questo caso quindi non italiana ma per tutta la comunità europea, prevede che le bici a pedalata assistita abbiano una potenza massima di 250 watt. 250 watt che quindi è la potenza che viene praticamente sfruttata al massimo da quasi tutti i produttori. Qualcuno scende un pochino sotto questo valore perché magari cerca di fare una bici più leggera, più facile da trasportare, quindi ha un motore un po' meno potente, ma mediamente io direi probabilmente il 90% delle bici elettriche ha quasi sempre un motore da 250 watt, quindi in quel caso è un po' un valore fisso che non dobbiamo troppo considerare. E invece sulle autonomie cosa va detto? Le autonomie sono un po' più alte di quelle dei monopattini, proprio perché c'è l'aiuto della forza umana anche insieme a quella della bici. Ci sono bici che possono arrivare anche ad autonomie di 80-100 km, anche superarle eventualmente. Le batterie sono decisamente più voluminose perché sono o nascoste all'interno del tubo obliquo della bici o sono incastonate un po' nella posizione come se fosse la borraccia, per capirci. E quindi hanno tanto spazio e quindi tanta capacità a disposizione. Una cosa che non ti ho domandato per i monopattini e te lo chiedo adesso per le biciclette: ci sono alcuni modelli che hanno le batterie estraibili, staccabili. Io immagino che una comodità in questo caso sia poterla prender via, sia perché così non me la fregano, cioè mi possono fregare la bicicletta ma almeno mi rimane la batteria, ma soprattutto perché se arrivo al lavoro, la prendo in ufficio, magari me la ricarico e quando torno è bella carica, oppure viceversa, arrivo al pomeriggio sera a casa e di notte me la ricarico, così la mattina è pronta, fresca, carica. Ci sono anche delle controindicazioni? Ma allora, nel monopattino secondo me sarebbe una complicazione inutile, perché è molto più semplice trasportare tutto il prodotto direttamente in ufficio senza stare a smontarlo. Nelle bici effettivamente molti modelli hanno la batteria estraibile, per i motivi che tu stesso hai detto. Posso lasciare tranquillamente la bici in cortile, in strada, parcheggiata, staccare la batteria, me la metto sulla scrivania e la carico anche mentre sto lavorando, senza avere ovviamente l'ingombro di tutta la bici. anche il furto può essere un fattore, anche se in realtà adesso qualche produttore sta risolvendo un po' questo problema, perché molte batterie sono legate proprio alla singola bici, per cui per un ladro rubarla sostanzialmente sarebbe inutile, perché poi la stessa batteria non potrebbe essere utilizzata su un'altra bici. Ah, interessante, non lo sapevo. Quindi per questo non serve, diciamo, per non farsela fregare. E però potrebbe servire, l'unico motivo per prendere una bicicletta con la batteria estraibile è quella di portarsela in ufficio in caso, ma quello potrebbe essere l'unico vantaggio. Esatto, a meno che non si stia parlando di una e-mountain bike, come si chiamano, quindi una mountain bike a pedalata assistita, in quel caso la batteria estraibile può essere utile, anche perché lo sportivo di un certo livello magari può mettersi nello zaino una seconda unità di scorta, e quando la prima batteria è scarica fa lo swap, inserisce la seconda batteria e prolunga l'escursione che sta facendo. Adesso parliamo di prezzi. Mi sembra in questo caso, cioè nel caso delle biciclette, dove anche come paese abbiamo una lunghissima tradizione, tanti tipi, tante proposte diverse, mi sembra che in questo caso ci siano veramente dei prezzi di tutti i tipi, tutti i generi. Che cosa possiamo dire? Allora, diciamo che se vogliamo un attimino trascurare i prodotti più economici, che sono magari quelli anche di una qualità un po' più bassa, diciamo, chiamiamoli da supermercato, senza offesa, che hanno magari prezzi intorno ai 500 euro, però non ci lasciano molto tranquilli sulle qualità tecniche, una bici pedalata assistita che abbia già un buon livello può gravitare intorno ai 1000 euro, magari superarli di un po', 1000, 1200, 1299 euro, già si può portare a casa un prodotto con delle discrete caratteristiche. Poi la forbice, come dicevi tu, è ampissima, si può salire poi in un attimo a 3000, 4000, 5000, fino anche a arrivare quasi a 10.000 euro per i modelli migliori, più belli. Però faccio fatica a capire delle escursioni da poco più di 1000 euro fino a migliaia di euro, cioè qual è la differenza? Abbiamo detto che sulla potenza del motore c'è poco, come dire, non cambia molto. Cosa cambia? I materiali, i telai ad esempio, che vengono utilizzati? Sì, il telaio può essere una parte importante, perché può dipendere anche dal materiale utilizzato. Quelle più economiche magari sono ancora banalmente d'acciaio, ma quelle più belle invece sono d'alluminio, fino ad arrivare magari anche all'uso di carbonio. Poi possiamo avere delle differenze anche nei motori, perché comunque ci sono tanti brand, hanno tutti la stessa potenza, però i brand più importanti, non vorrei fare pubblicità a nessuno, però Bosch probabilmente uno dei più conosciuti, ti assicurano una qualità nel tempo migliore rispetto a magari motori di marche sconosciute. La bici poi può avere magari anche le sospensioni, o solo anteriori o sia anteriori che posteriori, sono dei componenti questi che possono arrivare a costare da soli diverse centinaia di euro, quindi la differenza tra una bici da strada completamente non ammortizzata e una bici che ha anche solo una buona forcella ammortizzata, ci sono già diverse centinaia di euro di differenza di prezzo. Se poi abbiamo anche l'ammortizzatore posteriore, allora è un attimo avere migliaia di euro di differenza sul prezzo. Ok, vorrei affrontare un altro aspetto che mi sembra abbastanza comune di tutte le biciclette elettriche, cioè la tecnologia che può essere o accoppiata allo smartphone, cioè si connettono a un'app o più app dello smartphone, oppure molto spesso c'è un computerino di bordo con il quale si possono fare alcuni settaggi, si possono cambiare alcune impostazioni. Che cosa in particolare si può fare? Sì, quasi tutte le e-bike, anzi io penso proprio il 100% dei modelli, hanno sempre un computerino di bordo che principalmente serve per impostare il livello di assistenza alla pedalata. Se io sono un pochino più allenato posso risparmiare un po' di energia elettrica, spingere un po' di più con le gambe e il motore mi assisterà in minima parte. Se invece faccio un po' più fatica posso salire di livello di assistenza e anche con una pedalata non troppo forte il motore mi erogherà più potenza e mi assisterà in maniera migliore. Quindi principalmente il computer di bordo serve a questo. Poi, come dicevi tu, ci sono casi in cui ci sono anche le app. Con le app posso andare a vedere magari dei parametri in maniera un pochino più dettagliata, posso vedere quanta strada ho percorso, posso vedere la velocità media che ho ottenuto, posso magari andare a interagire sul livello di potenza adattandolo al mio stile di guida. Quindi magari se il livello massimo è un po' troppo per me, ma vorrei un pochino di più del livello minimo, posso andare a regolarlo, a modificarlo come piace di più a me. Principalmente servono a queste le app esterne. Ti faccio una domanda sul mercato. Dal tuo punto d'osservazione, che cosa vedi che siano più e magari più interessanti le start-up che sono entrate in questo mercato o i grandi brand anche storici del mondo della bicicletta sono oramai anche i padroni di questo mercato? Certo, immagino che le cose siano ancora fluide perché siamo, insomma, ai primissimi anni, è vero, da tanti anni parliamo di biciclette a pedalata assistita, ma il mercato, insomma, per tanti anni ha visto dei numeri molto molto molto piccoli. Da quello che posso vedere mi sembra che le due cose vadano un po' di pari passo, cioè quasi tutti i marchi più importanti si sono spostati anche sulle bici elettriche, anche marchi storici che non le avevano mai prese in considerazione adesso hanno una gamba piuttosto sviluppata, e allo stesso tempo ci sono delle start-up o comunque nuove società che si sono buttate in questo mercato proponendo dei prodotti esclusivamente elettrici. Per cercare di differenziarsi un po', queste società di solito cosa fanno? Propongono magari una bici con un design particolare, con una funzionalità nuova, con una maggiore interazione con lo smartphone, proprio per farlo sembrare di più un prodotto digitale, perché altrimenti non potrebbero competere con marchi storici che hanno una grande storia alle spalle. Quindi vanno un po' di pari passo, direi. Per funzionalità nuove che cosa intendi? Possiamo fare un esempio? Ma ci sono ad esempio dei produttori che hanno inserito, per dire banalmente, il GPS con dei sistemi di antifurto, quindi la bici, esattamente come succede per gli smartphone o per i computer, può essere tracciata tramite il GPS, quindi nel caso me la rubino posso andare a vedere tramite l'applicazione dove si trova la mia bici, dove è stata spostata. Una maggiore integrazione degli accessori, ad esempio, anche ci sono bici che hanno ad esempio le luci anteriori e posteriori perfettamente integrate dentro nel telaio e non sono degli accessori montati esternamente, quindi questo si riflette poi in un design più fluido, esteticamente più accattivanti. Prendono in prestito delle situazioni che sono nate con il mondo digitale e le cercano di inserire all'interno del contesto della mobilità. Chiarissimo. Massimiliano, grazie per essere stato con noi. Ti diamo appuntamento ad una prossima puntata, magari anche sentendo i suggerimenti dei nostri ascoltatori, tornando su o e-bike o monopattini o su un argomento più specifico. Grazie ancora, a presto. Grazie a voi, grazie e quando vuoi. Era Massimiliano Zocchi, esperto di mobilità elettrica, non solo monopattini e biciclette, anche di automobili elettriche, di dmove.it. Scritto dmove.it, fa parte del network di dday.it. Grazie a voi per l'attenzione, io sono Enrico Pagliarini, torniamo la prossima settimana con un'edizione super podcast, speriamo sempre più bella rispetto a quella che avete ascoltato, a volte riusciamo a mettere molti più contenuti, a volte un po' meno, insomma facciamo sempre il possibile e comunque vi garantiamo che facciamo sempre il massimo di quello che ci permette la natura e anche le tecnologie, l'azienda, eccetera eccetera, anche le leggi che appunto per un periodo ci hanno evitato gli spostamenti, ancora oggi non possiamo spostarci. Devo dire la verità, mi manca molto la possibilità di avere persone in studio perché non c'è niente da fare, l'interazione nell'intervista quando sei di fronte ad una persona è tutta un'altra cosa. Sì, puoi fare le cose via video, ma c'è niente da fare. Poi la voce dello studio, gli studi sono trattati di modo che si senta particolarmente bene, quindi secondo me la voce c'è niente da fare per un podcast o per un prodotto radiofonico, quella è perché a distanza dobbiamo adeguarci e dobbiamo adattarci alla disponibilità di microfoni delle persone, che a volte hanno dei buoni microfoni ma non sempre hanno dei buoni microfoni, ma del resto insomma uno che mica fa la radio, no? Quindi non è che deve avere un buon microfono. Oddio, adesso è vero che con le videoconferenze, se uno ha anche un discreto microfono, la cosa non guasta. Comunque, a proposito di videoconferenze, continuo a vedere un sacco di persone che non hanno, ma perché non ci hanno ascoltato, non hanno seguito i consigli che abbiamo dato con Gianfranco Giardino, cioè gente che si vede dal mento, gente che si vede di lato, gente che si vede in controluce, che non si capisce dove ha gli occhi, insomma, vabbè. È un mondo dove bisogna imparare, sta cambiando molto velocemente. Torniamo la prossima settimana, grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima puntata.